Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Stiamo trasformando lo spazio in una discarica, soprattutto l'orbita bassa, dove si concentrano i satelliti dedicati all'osservazione della Terra, e l'orbita geostazionaria, 36.000 chilometri dalla Terra, dove si trovano i satelliti che hanno bisogno di sostare sempre sulla verticale dello stesso punto del pianeta, come i satelliti per le telecomunicazioni. E così viaggi come quelli della nostra Samantha Cristoforetti, che da poco ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale, e ancor più viaggi a una distanza superiore, potrebbero diventare sempre più difficili in futuro a causa della presenza di rottami e detriti abbandonati nello spazio, senza contare che eventuali collisioni producono nubi di detriti potenzialmente in grado di scatenare un effetto di distruzioni orbitali a catena, dato che nessuna corazza è in grado di resistere a un impatto con un detrito di più di un centimetro di diametro, lanciato però a 35.000 chilometri all'ora. Insomma, il problema della spazzatura orbitante potrebbe diventare una seria complicazione per le attività spaziali in futuro, tanto che il diritto internazionale da qualche anno ha reso obbligatorio che satelliti e apparati spaziali vari siano dotati di sistemi rientro per deorbitare una volta giunto a fine vita il satellite. E qui veniamo al nostro ospite di oggi, Luca Rossettini, amministratore legato di D-Orbit, startup che ha messo a punto un sistema innovativo per affrontare questa necessità. Buonasera Rossettini. Buonasera a tutti e grazie di avermi invitato. Allora, quanto è grave, ma soprattutto come si risolve questo problema della spazza spaziale, chiamiamola così? Sì, beh, l'introduzione è molto corretta. Diciamo che dall'inizio dei tempi sono stati lanciati 6.000 satelliti e oggi solo 1.000, un migliaio sono attivi, il 70% vagano incontrollati proprio a rischio di andare a collidere uno con l'altro. L'unico modo che abbiamo di risolvere questo problema è fare in modo che questi satelliti, una volta raggiunto il fine vita, se vicini alla Terra vengono quindi spostati dalla propria orbita e fatti rientrare verso Terra in modo controllato, in modo tale che non creino poi danni sulle popolazioni, oppure se lontani dalla Terra come quelli in orbita geostazionari, che vengano spostati più lontani, diciamo qualche centinaio di chilometri più lontani, in modo che magari in futuro possano essere anche recuperati e magari riciclati direttamente in orbita. E in pratica, quando si vuole abbassare un satellite bisogna dargli una potente frenata, diciamo così, no? Mentre quando lo si vuole alzare bisogna dargli un'accelerazione. Questo prevede, diciamo, la fisica. Sì, esattamente. Diciamo che un satellite, per un rientro diretto, bisogna frenarlo da, diciamo, la velocità orbitale che aveva citato lei, che più o meno siamo attorno ai 30.000 km all'ora, mentre un satellite in orbita geostazionaria va aumentata la velocità una volta per farlo spostare in orbita e poi va circolarizzata l'orbita, certo, con un'altra spinta del perché motore. Altrimenti entra in un'orbita di tipo ellittico. Che cosa succede a un satellite quando lo si rallenta e cade verso terra? Beh, quello che succede oggi è che i satelliti più bassi, lentamente, grazie all'attrito con gli strati alti dell'atmosfera, rallentano un po' alla volta e decadono da soli anche in decine di anni, e quando rientrano in atmosfera nessuno può prevedere né dove né quando fino a pochi minuti prima dell'impatto. Quindi questi potrebbero davvero creare dei grossi problemi alla popolazione e all'infrastruttura. Ecco, nella maggior parte dei casi si disintegrano per aria, ma se sono un po' grossi qualche rottame può arrivare a terra e lì, insomma, può essere veramente pericoloso. E veniamo al vostro apparato, D-Orbit, come funziona? Sì, D-Orbit è un sistema propulsivo, innovativo, intelligente, che rimane indipendente dal satellite, quindi viene installato sul satellite prima che il satellite vada in orbita. Quando il satellite raggiunge il fine vita, da terra l'operatore del satellite, quindi il proprietario, può attivare il nostro sistema, che permette quindi di spostare molto rapidamente, in maniera molto controllata e sicura, il satellite o verso terra, dove, come diceva lei, in parte si frammenterà in atmosfera, in parte cadrà in una zona... Però magari sappiamo quale, tipo l'oceano, esatto. Ecco. Oppure lo spostiamo in un'orbita cosiddetta cimitero, più lontana, in modo da non creare danni o potenziali danni ad altri satelliti invece operativi. Ecco, quindi questo apparato che cos'è? Una specie di razzetto? Sì, diciamo, è composto da due parti principali. Io chiamo una parte il cervello, che certo, è, diciamo, un sistema di elettronica, di servosistemi, che comanda un motore. Il motore è un motore a propellente solido. Sostanzialmente è tipo di motore che può essere utilizzato anche nei missili. Certo. A che punto siete dello sviluppo del vostro progetto? Quale sarà il prossimo passaggio importante? Sì, beh, noi siamo partiti nel 2011 con un disegno. Oggi la nostra tecnologia è certificata per essere utilizzata nello spazio, è stata anche lanciata in orbita e stiamo lavorando ad un nuovo satellite con il nostro dispositivo a bordo che verrà lanciato l'anno prossimo grazie ad una sponsorizzazione NASA CASIS e servirà proprio a dimostrare il funzionamento del nostro dispositivo in orbita. Cioè, insomma, lo mettete alla prova. Va bene, grazie Rossettini e avanti così. Grazie a tutti e arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.